Ma tanta la serieida pure svenia la fieida, e come la rara rustal, la gallina qui tambe lugal, e ante lugal, lugal e sui brancal, e ante lo brancal è stata lavorata, e ante da che la lavorata, la userula grattisata, e ante da che la usel, e su un ramel, e ante da che il ramel, la cabra non ha mangiato il musel, e ante la cabra, e ve lulu l'ho mangiata, e ante lulu, un po' per tutto, a usare la cuca per fargli di giusto.